pueblo que era revista y distrita. No se te no pegue, no se acorche de las confitas. Intorno non c'è più la gente che prima applaudiva e resta in piedi nel buio sorride da sola. Ora restano soltanto ricordi distanti e guardi le foto e ricordi di come eri prima, ma è solo un brano di un fantasma che adesso cammina. E franco dentro buio non riesci a uscire. Diceva non ti preoccupare, qualcuno rideva. Ti sei addormentata di colpo al risveglio e risuona. Yeah. Da quello che era.